Chart. New York. Billboard Music Chart. Tokyo. Billboard Music Chart. Club Retro. Club 91. Club 91. Club 91 presents. Club 91. Club 91 presents. Billboard Music Chart. Hello everybody, this is Turtle Kavanaugh. Lunedì sera, ora 21, l'inizio di un'altra settimana pieno di musica, di notizie e di tutte le belle cose di Billboard Music Charts. On controls il nostro Gino Palombo. E ragazzi, venerdì, anzi sabato, segnalavo il diecesimo anniversario della morte di Freddie Mercury e perciò iniziamo il programma ricordando a lui, Freddie Mercury, Living on My Own. Alla bella, che memoria che porta questo grande pezzo. Vai Freddie! Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing. there he's gone, Freddie Mercury, Living on My Own. E Gino, non mi hai detto che sapevi ballare come Freddie Mercury? E questo tutto di sci, sembri proprio come lui. Comunque, un bel ricordo, Living on My Own from Freddie Mercury. E poverino, è morto 10 anni fa, proprio una settimana prima del World AIDS Day, che si fa il 1° dicembre. Comunque ne parliamo di più di quello verso le 10:20. Mi raccomando, rimanete con noi, Billboard Music Charts. Allora, il nostro numero di SMS, segnatevelo, perché così potete firmare il nostro guestbook e vincere un bel cappellino di Radio Club 91. Allora, pronto con carta e penna? 335-537-9191. Allora, la classifica di oggi, al numero 22 on the American Adult Rock Charts, troviamo Depeche Mode con il loro nuovo pezzo, molto bello questo, si intitola Free Love. Mega hit per Alicia Keys with Falling. Questo si trova at number 4 on the Billboard Hot 100, numero 4. Allora ragazzi, vi devo avvertire di un appuntamento molto speciale. Mercoledì sera avremo il piacere di fare un'intervista in diretta con un certo Eran. E Eran, come sapete se ci seguite, è il cantante di Still Believing from Danimarca. E perché non l'ascoltiamo adesso? Va bene, affare fatto. Here he is, Eran and Still Believing, leaving on the Billboard Music Charts on Radio Club 91. I want you to understand, oh baby, I've been waiting for so long, now I want you to know, oh baby, exactly how I feel about you. Please let me know if it's really me. Tell me if you'll be my love. che bello questo pezzo, si intitola Still Believing e viene da Erran. E vi ricordo che mercoledì sera sarò in conversazione con Erran on Billboard Music Charts, un appuntamento da non perdere mercoledì sera. Allora siamo arrivati al momento del disco prenotato. Allora grazie a Anna Giussi che ci ha contattato al 335 537 9191, il nostro numero di SMS. Potete anche telefonarci al 081 549 9191 per richiedere il vostro pezzo preferito. Però attenzione, non le mettiamo oggi, le mettiamo in un futuro edizione di Billboard Music Chart, perciò si intitola richiesto prenotato. Allora Anna Giussi è un grande fan di Ivano Fossati e ha richiesto una versione live al Teatro Comunale di Cremona, Ponchielli a Cremona, non lo so dove sia, però immagino che è molto bello il teatro. Comunque per te Anna Giussi, questo è Ivano Fossati e carte da decifrare. Casa aveva 10.000 scalini e 1.000 anni e più di 100 bambini. La casa aveva certamente due porte, una in faccia al sole e l'altra che ci pioveva sempre forte. E in ogni stanza c'era più di un letto per gli amori belli, quelli da non dire, e certamente c'era un tetto rosso e muri bianchi per starci a ridosso, e muri bianchi per starci a ridosso. E anime ad andare a venire, era un gran bel camminare, gente che doveva lavorare, alla fermata delle sette sotto i cappotti sopra le biciclette, c'era la scala che saliva al terrazzo, 40 metri di vicinanza al cielo per vedere le stelle d'agosto che ci sembravano un velo e sembrano comunque un velo. Ci fu una donna che scrisse a qualcuno: io non ti voglio e non ti voglio più per niente. Lui rotolò giù da quel cielo sbagliato di marzo, quel suo amore già comunque morente, quel suo cuore già comunque morente. C'era un uomo che non ci aveva pensato ancora, e c'ero io che non avevo capito niente. Ma sapevamo che non era tardi per tutti e due, così, ugualmente, e avevamo poche canzoni, ma duravano tutto il giorno, gli facevamo fare andata e ritorno, facevano andata e ritorno. Facevano andata e ritorno. La casa aveva 10.000 scalini, 10.000 anni e non so più quanti bambini, bambini e operai tutti dentro al portone. Aspettiamo che spiova, signor padrone. aspettiamo che sfiola, signor padrone. Aspettiamo che sfiova, signore. Noi aspettiamo che sfiova. Billboard Music Chart. Train, fermate quel treno. Un bel pezzo da questo gruppo napoletano che li porta successo non solo in Italia ma anche in Svizzera e Austria. E con questo voglio salutare a Maurizio e Simona. Ciao ragazzi, allora voi ci potete scrivere pure al 335 537 9191. Allora ragazzi, avete visto quel persone di là? Vi posso dire che non ero io, Shaggy l'ha detto pure, it wasn't me, veramente. Kids, questo è Macy Gray con Sexual Revolution e l'album sta avendo molto successo, si trova al numero 57 in America su the Billboard Hot 200 Albums. Complimenti a Macy Gray, un voce veramente inconfondibile, e lei sta vivendo questa rivoluzione sessuale, e complimenti. Allora ragazzi, se siete studenti, questo annuncio vi interesserà sicuramente, perché è in edicola il nuovo numero di Ateneapoli, quindicinale di informazione universitaria al 17° anno di pubblicazione. Ingegneria, troppo crediti e un eccessivo carico didattico. Potete leggere di quello, perché Ateneapoli è in tutte le edicole di Napoli e provincia, e del Casertano a solo 2000 lira. Bello questo fatto. Allora andando avanti con la musica, guardiamo il Dance Chart della Hot 100. Dance Chart in Billboard. At number 12 troviamo i Seabox con My Imagination. Vai tutti! Perché oggi ho visto la quotazione per il mondiale e l'Irlanda sta più alto che l'Italia. Questo è un fatto incredibile, ma vero. Vinceremo i mondiali l'anno prossimo. Che ne pensate voi? SMS alla 335-537-9191. E qua state ascoltando Brian Harvey, ex cantante da E17, con il pezzo Loving You, che non è stato un successo quanto avrebbe voluto. Stesso per Mick Jagger con il suo album, però un gran bel pezzo, God Gave Me Everything. You could see it in a woman's eye. You could hear it. New York Billboard Music Chart. The Sound of Natalie Imbruglia with That Day, il che vuol dire quel giorno. E ragazzi, vi posso annunciare che domani verso le 21:20 vi facciamo sentire un pezzo tradotto in italiano, e tra quello che abbiamo tradotto in questa settimana c'è anche That Day di Natalie Imbruglia. Quindi orecchio alla radio per quello ogni sera verso le 21:20, un bel traduzione che nominiamo Trick e Trax. Allora, siamo arrivati ad un altro momento molto importante, l'appuntamento con Now and Then, dove facciamo sentire un vecchio pezzo e poi la versione nuovo, tutto rinnovato. Allora, per stasera torniamo al 1982, dove troviamo il gruppo Toto, un gruppo praticamente fatto di musicisti che facevano ospiti su altri dischi e poi si sono riuniti per fare dei bel album. Magari vi ricordate pure di Rosanna, che abbiamo suonato la settimana scorsa, e anche Africa, un gran bel pezzo. Allora, loro hanno avuto un grande successo pure con un pezzo di nome I Won't Hold You Back, ma poi quest'anno, che stavamo ascoltando su tutto da Dance Floors, le piste di ballaggio, un grande bel hit per Roger Sanchez di nome Another Chance. Non lo so se vi ricordate il video, visto che c'era una ragazza con un cuore enorme, molto molto carino. Però ragazzi, noi non stiamo parlando del video, stiamo parlando della musica. Allora, vi ricordo, dal 1982, Toto, gruppo americano, with I Won't Hold You Back, e poi il grande successo per Roger Sanchez, a number one for him, non solo on the Billboard Music Charts, però all over the world. Si chiama Un'altra Opportunità, Another Chance. You're listening to Radio Club 91, Billboard Music Charts, ed è arrivato il momento di Now and Then, la più bella musica mixata per voi dal nostro DJ Gino Palombo. anno del Club 91. Then again, that doesn't mean you mean that. emozioni, che emozioni sentire questo grande pezzo. Loro sono i 10cc, non lo so se in Italia si chiamano il 10cc. Comunque sono il gruppo originale di Godly and Cram e questo bel pezzo si intitola I'm Not In Love. You're listening to the Billboard Music Charts. Oggi è il 26 novembre 2001 e esattamente 25 anni fa, nel 1976, il 26 novembre, Kevin Godly and Lowell Cram hanno lasciato il 10cc per concentrare su altri progetti e hanno pure fatto della produzione molto bello. Per esempio hanno fatto Cry, quel gran singolo degli anni 80 pure, quindi musicalmente non hanno lasciato la scena. Ok, Fergal Cavanaugh on voce, Gino Palombe on controls, il nostro numero di sms 335-537-9191, così potete firmare il nostro guestbook e vincere un bel capolino di Radio Club 91. E voglio salutare Manuela che ci ha scritto: grazie del tuo bel messaggio, Banderas è un grande, hai ragione, Banderas sarebbe il nostro Gino Palombo. Ripeto il numero 335-537-9191 per il vostro sms. Now you're listening to Nelly Furtado. Dove sta? She's on the radio, sulla vostra radio, Radio Club 91. Ora su The Billboard Hot 100, immagino che gli fa molto piacere anche a tutte le sue affari di famiglia, un sacco di soldi, no? Bella averla in famiglia. Allora, venerdì vi abbiamo fatto sentire il nuovo di Paul McCartney, che parla della tragedia del 11 settembre, ed in un'intervista lasciata sul The Independent, il giornale inglese, Paul McCartney si è dichiarato molto pro questa guerra. Allora, stiamo parlando di un Beatle che avevo detto una volta la pace e la cosa più importante nel mondo, però purtroppo adesso è annunciato che questa guerra è necessario e è tutto d'accordo. Comunque eccolo qua, with freedom, la libertà, vai Paul McCartney. This is my right, a right given by God, to live a free life, to live in freedom, talking about I con Paul McCartney. Abbiamo il diritto di vivere nella libertà, però purtroppo non posso condividere la sua opinione che la guerra è una cosa necessaria. Non lo so, è molto triste pensare che un Beatle che ha scritto insieme a John Lennon Give Peace a Chance adesso sta dicendo allora andiamo a fare la guerra. Comunque le gente cambiano con l'età e sicuramente questo sarà un gran bel hit per Paul McCartney. Allora siamo arrivati al momento dell'album della settimana, però ragazzi questa settimana invece di un album abbiamo sceso un singolo, perché sabato prossimo il 1 dicembre è World AIDS Day, cioè il giorno mondiale della AIDS, e perciò volevamo festeggiare questo fatto con un pezzo che è in vendita adesso per la beneficenza dei AIDS. Sto parlando di un gran canzone originalmente di Marvin Gaye di nome What's Going On. Noi vi facciamo sentire delle versioni diverse ogni sera verso quest'ora sul Billboard Music Charts, e voglio segnarvi che il primo che ascoltiamo stasera è l'originale di Marvin Gaye, è stato scritto da Ronaldo Benson dai Four Tops, però i Four Tops, il gruppo, non lo volevano registrare perché loro hanno detto è una canzone di protesta, noi facciamo canzoni di amore, e lui ha risposto no, questo è una canzone di amore, dell'amore e capire tutto quello che sta succedendo nel mondo, perché questo mondo potrebbe essere così bello, invece è come lo troviamo. Ragazzi, ascoltiamo l'originale di Marvin Gaye e da domani in poi vi facciamo sentire la versione disponibile in singolo, molto molto bello. Vai Marvin Gaye, What's Going On. Brother, there's far too many Billboard Music Chart. Tara. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Strong should be labeled as a hazard. Some of y'all know, hot psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, easy gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood, drama, cast it. Cut, camera off, real, blast it. Contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your mind. From No Doubt, un gran bel pezzo questo. Allora, you're listening to the Billboard Music Charts ogni sera dal lunedì a venerdì dalle 21 alle 23. Vi ricordo il nostro numero di SMS per firmare il nostro guestbook, 335-537-9191. E devo salutare a Gianluca. Grazie Gianluca per il tuo messaggio. È vero, le musiche che mettiamo qua ogni sera è molto bello. E grazie, grazie, continua ad ascoltarci. 335-537-9191. Ragazzi, noi siamo a Napoli, che non era costruito in un soltanto giorno. Non avevo ancora scritto una canzone a proposito di questo, però sono arrivati a Roma. Prima o poi arriveranno anche qua. Here's more Chiba. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know the dam wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you. 91 sul tuo computer. E questo adesso si trova al numero 7 on the Italian Album Charts. Complimenti Lenny Kravitz per un gran bel hit. E non lo so se avete avuto la possibilità di vedere il video, è molto molto bello, dove Lenny suona su una piattaforma di olio e ci sono tutti questi elicotteri che vengono intorno a lui mentre suona. È proprio un rock god il nostro Lenny Kravitz, e ha dimostrato proprio in questo nuovo album, dove lui suona tutti i pezzi da solo. That's incredible. Allora ragazzi, Billboard Music Charts, noi siamo al momento di farvi ballare, e questo si intitola Letting Your Mind Go, lasciando la mente libero. E loro sono i Desert. In questo weekend mi hanno detto a New York che stavano tutti ballando su questo e che stavano tutti liberando la mente. Noi vogliamo che voi ascoltatori di Radio Club 91 liberate la mente. Let Your Mind Go. Meraviglioso da questa ragazza islandese, lei è Björk, e questo è il suo singolo Pagan Place, che viene dall'album Vespertine, ecco. E poi è un po' difficile pronunciare questo nome inventato, se non sbaglio, di Björk. Allora, questo è il numero 5 on the European Album Chart, suo album, mentre on the Billboard Hot 200 si trova al 182, un buon performance per lei, dobbiamo dire. E poi ragazzi, voglio annunciarvi un po' in ritardo, questo è stata la nostra proposta per questa sera, quelle che stiamo ascoltando a casa in questi giorni. E vi posso anche anticipare che sarà il nostro album della settimana, dal lunedì prossima, perciò continuate ad ascoltare a Radio Club 91. E anche se avete da suggerire, il nostro SMS è 335-537-9191 per la vostra proposta. Here's Blue Cantrell. Just dreaming, can't believe that I caught my man cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping spree, and on the way I got fully in Mia. And as the cash box rang, I thought everything away. There goes the dreams we used to say. There goes the times we spent away. There goes the love I had, but you cheated on me, and that's for that now. While he was dragging, I was coming down the hill of just dragging all his pictures and his clothes in the bagging. Sold everything else till there was just nothing left. And I paid all the bills about a month too late. It's a shame we have to play these games. The love we had just fade away, away. There goes the dreams we used to say. There goes the times we spent away. There goes the love I had. Style, oops, si intitola, e si trova at number 27 on the Billboard Hot 100. È stata su questa classifica da tanto tempo, ma stiamo parlando di più di 5 mesi. Un gran bel hit per lei che finalmente è arrivato anche qua in Europa e possiamo goderlo sulle dance floor di tutta Italia in questi giorni. Lei, vi ricordo, vi ho già raccontato una volta on the Billboard Music Chart, vi ricordo che è stato un backing singer con Puff Daddy, o Didi come adesso è conosciuto, però poi ha deciso ce la faccio anche da solo. E non sbaglia ragazzi, un bel pezzo pieno di energia e felicità per chiudere il nostro programma questo lunedì sera. E lunedì non è andato così tanto male, dai ragazzi, domani intanto è martedì e vi ricordo che domani verso le 21:20 noi vi facciamo sentire Trick and Track, il che è un bel traduzione di una canzone conosciutissimo. E quindi se vi siete a chiedere ma che vuol dire questa canzone, che sta dicendo Kylie Minogue per esempio, ascoltate domani, forse sarà proprio Kylie, vediamo. Se ci avete qualche proposto ci potete contattare al nostro SMS, vi lo ricordo un attimo, 335 537 9191, oppure telefonandoci 081 549 9191. Per qualche proposto c'è anche Gino che è pronto a raccoglierlo in questo istante. C'è anche il nostro website www.radioclub91.it. Ci vediamo lì. This is Fergal Kavanagh saying bye bye. Ringrazio anche Gino Palombo. 91, music and news.